Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Michela Redini, dal 1793 la Cedrata Tassoni per tutte le stagioni, di Anna Marino. Il profumo di cedro attraversa da ben due secoli le generazioni della famiglia proprietaria della storica azienda Tassoni, come racconta Michela Redini, quarta generazione. La Cedral Tassoni oggi imbottiglia circa 25 milioni di pezzi all'anno, con un fatturato di 11,3 milioni di euro. Esporta in Europa, ma anche in America, Russia, Corea del Sud. Saldamente radicata nel territorio di Salò, sulle sponde del lago di Garda, dove da sempre vive la tradizione di distillare infusi idroalcolici ricavati dal cedro, la sua fondazione risale al 1793 come laboratorio speziale. La spezieria viene riconosciuta farmacia nel 1793. Nell'868 è acquistata dal marchese Nicola Tassoni, che nel 1884 la rivende a Paolo Amedei, che decide di darle un carattere industriale. Divide la distilleria dalla farmacia, dando così vita e impulso alla Cedral Tassoni, destinata a divenire azienda dinamica e attenta a tutte le soluzioni offerte dai frutti del cedro e di cui l'acqua di tutto cedro rappresenta la primogenitura. Così racconta la storia della bevanda Michela Redini, bisnipote di Paolo Amedei. La spezieria è iniziata nel 1793 proprio in centro Salò. Poco dopo, verso fine 800, è diventato quello quando è stato permesso una farmacia e poi uno stabilimento farmaceutico e poi un'azienda. In effetti il cedro all'inizio veniva lavorato come un farmaco. Il liquore al cedro, che allora aveva 19 gradi più o meno di quando veniva imbottigliato, veniva usato per problemi di stomaco. E per cui era in effetti un farmaco, come succede per tante bevande che ci sono al giorno d'oggi. Poi il mio bisnonno decise che il prodotto in fondo non era così male e per cui si poteva forse commercializzarlo. Ebbe questa iniziativa e il suo socio, che era il marchese Tassoni, da cui prende il nome la cedrata, si ritirò, non voleva entrare in questa avventura, e mio bisnonno invece partì da solo e creò uno stabilimento farmaceutico nel 1880 e poi nel 1900 proprio una vera e propria azienda. Secondo gli storici, già nel XVIII secolo alcuni speziali o farmacisti della Riviera Gardesana si dedicarono a valorizzare le apprezzate caratteristiche del cedro, realizzando, mediante sapiente distillazione di infusi idroalcolici ricavati dalla buccia del frutto, gli alcolati di base per la preparazione dell'acqua di tutto cedro, a gradazione moderatamente alcolica. Ma secondo Michela Redini, nella produzione storica della cedrata, la Tassoni decise una svolta imprenditoriale. Nell'Ottocento c'erano addirittura 18 aziende a Salò che lavoravano il cedro, proprio perché legate al territorio, quello era il prodotto locale. Venivano distillati i cedri e il prodotto veniva venduto localmente oppure nella provincia di Brescia. Quello che ci ha distinto è stato il fatto che appunto il mio bisnonno ha deciso di fare una cosa molto più estesa. Ha creato un prodotto che non era di base una cosa farmaceutica, ma un cordiale al cedro, e ha deciso poi di commercializzarlo in tutta l'Italia. E così è cominciata la nostra storia, diciamo, imprenditoriale. Da farmacia a stabilimento farmaceutico. E poi, nel 1921, a Paolo Amedei succede il figlio Carlo e l'azienda entra in una nuova fase di espansione. Carlo Amedei crea un nuovo prodotto, la cedrata Tassoni. C'è una fotografia bellissima in cui si vede la facciata della fabbrica, come era nel 1900, e un carrettino tirato da un asinello che usciva con le damigiane di cedrata dentro e usciva dal cancello principale. Poi naturalmente il tutto si è ampiamente evoluto, ma già nel 1900 noi abbiamo un attestato dove alla Fiera Universale di Parigi abbiamo ricevuto il premio come terzo prodotto, per cui allora avevamo cominciato inizio Novecento ad andare anche all'estero, e poi naturalmente c'erano fiere, eravamo la Fiera di Milano, quando è iniziata eravamo sempre presenti, e poi avevamo una rete vendita in tutta Italia e sicuramente questo ha aiutato l'espansione del prodotto. E mano a mano poi che è stato più facile il trasporto per strada, eccetera, il tutto poi si è naturalmente evoluto dopo la guerra, quando dallo sciroppo si è passato, seguendo l'arrivo della Coca-Cola in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, la bevanda gasata, che la cedrata Tassoni l'ha cedrata già pronta nella sua dose ideale. E certo questo era anche possibile, appunto, perché la logistica si era evoluta ed era molto più facile contattare e raggiungere tutti i punti che potevano interessare di vendita. La storia nazionale ha attraversato la storia delle aziende. Durante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, Salò fu sede di alcuni ministeri della Repubblica Sociale Italiana. Nella biblioteca dell'azienda si trovano tutti i documenti che Cedral Tassoni mette a disposizione per le ricerche. Durante la prima, mio nonno, che è quello che poi ha inventato la Tassoni Soda, la Cedral Tassoni Soda, era sul fronte del Piave. È stata un'esperienza molto dura, ha dovuto fare la sua ritirata a piedi, eccetera. E appena tornata finita la guerra ha dovuto cominciare a lavorare in fabbrica perché il padre era morto. E ha continuato ampliando moltissimo tutto quello che era la richiesta di quel momento, creando sciroppi, creando tutta una gamma di prodotti, liquori, che venivano distribuiti ovunque. Il periodo duro è stato durante la Seconda Guerra Mondiale, perché il fratello di mia madre era partigiano e per cui non eravamo, diciamo, ben visti. E anzi mio nonno gli venne richiesto di, anzi imposto direi, di fare la guardia ai figli del telegrafo, appunto per rappresaglia, perché il figlio era partigiano. Ma lui arrivava in fabbrica la mattina, prendeva un camion, una scrivania, un'impiegata e andava a lavorare dove c'erano i figli e non si muoveva, non correva avanti e indietro come diceva mia nonna, corri mi raccomando avanti e indietro che non ti taglino i figli. Lui ha continuato tranquillamente a lavorare tutti i giorni per strada finché non gli hanno permesso poi di ritornare in fabbrica. E devo dire che è stato un periodo sicuramente duro, però abbiamo continuato a commercializzare anche durante gli anni della guerra in modo ridotto e poi dopo la guerra c'è stata la ripresa. Strategico, secondo Michela Redini, è capire che una necessità dell'industria moderna è far conoscere il nome del prodotto investendo in pubblicità. Non solo con i manifesti della Cedral Tassoni, un classico pubblicitario anni 20 e 30, ma negli anni 50 con gli spot pubblicitari. Quello della Cedrata Tassoni è uno dei più longevi della TV italiana. Va in onda dal 1982 ogni estate. Noi abbiamo sempre fatto, fin dall'inizio, delle campagne pubblicitarie molto importanti. Fine 800, inizio 900, sull'Illustrazione Italiana, sulla Domenica del Corriere, abbiamo sempre questa nostra presenza che era importante e preponderante. Poi naturalmente ci siamo evoluti col tempo, abbiamo cominciato a fare i primi caroselli. Mia madre ricevette anche da Mai Buongiorno il Carosello d'Oro per una campagna pubblicitaria che era stata fatta. E poi ci fu il grande evento naturalmente di Mina, con cui abbiamo avuto una collaborazione di almeno 7 anni e che è stata veramente un'esperienza unica, perché sentirla cantare anche in playback era da brivido. E naturalmente io assistevo a tutte le riprese dei caroselli, allora avevo 19 anni, anzi 18. La Tassoni ha bisogno di 40 tonnellate di cedri all'anno. Dagli impianti di Salò escono 200.000 bottigliette di cedrata al giorno. Immutate rimangono la produzione e l'antica ricetta della cedrata. E il segreto è anche non sprecare nulla, come racconta Michela Redini. Abbiamo una filiera completamente interna alla fabbrica, il prodotto è assolutamente seguito dall'inizio alla fine, niente viene comprato fuori, i nostri aromi noi li produciamo tutti internamente. I cedri adesso arrivano dalla Calabria, perché sul lago di Garda sono soltanto ornamentali nelle cedraie rimaste. La qualità diamante, che è la più particolare, viene raccolta una per una quasi dai nostri fornitori. Devono essere verdi, perché quando l'agrume è acerbo gli oli essenziali sono molto più forti, non è il cedro giallo che si vede nelle bancarelle di solito, questo è verde, e vengono sbucciati. Il flavedo viene messo in un'infusione idroalcolica per un certo periodo di tempo, non racconto tutto ma quasi, e poi viene distillato il prodotto, e quando c'è la distillazione altro profumo di cedro per tutta la fabbrica, viene messo da parte per un altro periodo di tempo e abbiamo il nostro mago, dico io, interno, che ogni mattina quando dobbiamo produrre la cedrata arriva alle 4 di mattina, accende le caldaie e prepara la base del prodotto, perché abbiamo scoperto che se il prodotto viene preparato, la base del prodotto viene preparata proprio il giorno della fabbricazione del prodotto, l'aroma si mantiene ancora di più. Il cedro che rimane non viene assolutamente scartato, viene rinviato ai nostri fornitori che ne fanno canditi. Quando ero bambina io, siccome i cedri vengono sbucciati in novembre, quando li avevamo sbucciati li mandavamo dalle magne che faceva i canditi per i suoi panettoni. Legame con il territorio e attenzione all'ambiente sono gli altri ingredienti della cedra al Tassoni. Adesso siamo assolutamente in centro, in città, per cui i nostri controlli a qualsiasi livello, a maggior ragione, devono essere assolutamente qualificati e perfetti. Noi non vogliamo andare via da lì e per cui è una realtà che noi vogliamo tenere legata al territorio, perché siamo molto legati al comune di Salò, abbiamo con il comune molte attività, siamo sponsor dell'estate musicale, di parecchi eventi che vengono, perché il territorio è quello che ci ha dato la possibilità di diventare quello che siamo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.